versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon mercoledì 5 di marzo, sono le 16.35 e 36 secondi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 qui da Milano. Vado subito all'argomento del giorno chiedendo a voi che siete in ascolto all'800 24 00 24 di telefonare per dirci la vostra. Questa puntata parte da una notizia che è di cronaca di ieri e avete trovato su tutti i giornali di oggi, che mi ha molto colpito e che ci porta qui ad avere un ospite. Le due notizie sono in realtà collegate e ci dicono molto della legalità, dell'illegalità, delle condizioni dell'Italia piegata dalla crisi, e però esprimono un paradosso terribile, duplice paradosso. Qual è la notizia di cronaca? La notizia di cronaca, l'avete vista su tutti i giornali immagino, è questa banca dell''Ndrangheta che è stata smantellata dalla direzione antimafia con decine di arresti, era in Brianza, riciclava capitali ovviamente illeciti, ma quello che mi ha colpito è che questa banca faceva prestiti a vista a piccoli imprenditori, pensate, solo in cambio di un tasso di interesse del 5%. Mentre siamo abituati negli anni a sapere che, non ho capito, la malavita gestisce il mercato dell'usura con tassi altissimi, doppi, tripli, che poi di mese in mese si alzano e a quel punto fanno scattare le inevitabili ritorsioni della malavita su coloro che vi si affidano, disperati, la mafia, l''Ndrangheta, in questo caso sembra sapere leggere e sapersi adeguare in termini molto più elastici nel sistema bancario legale, ufficiale, alle condizioni terribili della crisi, e quindi offre prestiti a vista al solo tasso del 5%, cioè quello che un qualunque piccolo imprenditore italiano in difficoltà si sogna di avere in una banca ufficiale. E questa è la notizia da cui partiamo. Però poi il nostro ospite esprime un doppio paradosso, ancora più inaccettabile per tanti punti di vista, perché lui è un piccolo imprenditore che ha in prima persona, esponendosi, assumendosi tutti i rischi terribili del caso, denunciato una rete esattamente di usurai. Eppure la sua storia, paradossalmente, è una storia che dimostra, io non voglio usare termini che possono offendere i legalitari che ci ascoltano, perché non ho dubbi sul fatto che bisogna combattere l'usura, le mafie grandi, piccole, però questo piccolo imprenditore, malgrado quello che ha fatto, ha dovuto chiudere tutte le sue attività perché a voltargli le spalle, dopo quello che aveva fatto, malgrado quello che aveva fatto, sono stati chi? Da una parte lo Stato e dall'altra le banche, quelle ufficiali, non quelle dell''Ndrangheta che fanno i prestiti nell'Italia di oggi al 5% di interesse. Ecco, questo è l'argomento della giornata, perché vorrei sapere da voi cosa pensate di questo doppio paradosso, come immaginate che sia giusto intervenire di fronte a un sistema bancario che fa restrizione di credito e pratica famiglie, imprese, tassi molto più alti di quello 0,25 cui paga il denaro, e dall'altra parte di chi, esponendosi, si trova a dovere amarissimamente ad avere questo duplice effetto. Prima di presentarvelo, ancora due brevissime note sulla giornata. Lo sapete forse, la Commissione europea ci ha ulteriormente retrocesso, siamo insieme a Slovenia e Croazia i tre paesi dell'Europa esposti alle più gravi macroeconomiche instabilità da squilibri interni. L'eredità del governo Letta si rivela molto pesante, aggiungendosi questo alle indagini per aiuti di stati alle Poste e alle banche via rivalutazione quota Banca d'Italia. Prima cosa, ultima cosa. Stamattina il presidente del Consiglio Renzi era ospite in una scuola, la scuola Raiti di Siracusa, e troverete sui giornali domani che gli insegnanti hanno fatto cantare ai bambini, all'incolpevole Renzi, che non posso immaginare ne sapesse nulla, una canzone che dice: ti salutiamo tutti insieme, presidente Renzi, a braccia aperte diciamo benvenuto a Raiti, e fin qui tutto bene. Dopodiché gli si dice: ti affidiamo con fiducia, oggi al ritmo di blues, i nostri sogni, le nostre speranze, alle tue idee, al tuo lavoro, affidiamo il futuro. Mi dispiace, non ci siamo, cari insegnanti della scuola Raiti di Siracusa, che avete fatto cambiare a cantare questa canzoncina di elogi a un Matteo Renzi che diventa quasi la caricatura della buonanima Mussolini in giro per l'Italia. Io temo che canzoncine come queste dimostrino distinto che scatta quando si è sudditi e non più cittadini e si diventa le caculi, capite? Ecco, questa è una cosa che mi ha infastidito molto, perché dà l'idea che noi per primi dal basso non sappiamo misurare i termini con cui ci si rivolge a una politica che ci deve molto. Non è che noi dobbiamo insegnare ai nostri bambini che affidano i loro cuori al presidente del Consiglio di turno, ma che, se vogliamo scherzare o facciamo sul serio? Ecco, fine di questa premessa, ma tutto si tiene, perché come vedete il nostro ospite lo paga sulla pelle personalmente, la intollerabile, paradossale contraddizione di uno Stato che incita tutti alla legalità e poi bastona chi si espone in nome della legalità. E con noi Pier Francesco Raffaelli, appunto imprenditore usurato, lavorava per conto di UBS Trasporti a Milano, che ha denunciato l'usuraio, ma però i fondi antiusura lui non li ha mai visti e nel frattempo ha chiuso l'azienda. Buon pomeriggio e grazie a Pier Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Ci spiega un po' meglio, Pier Francesco, com'è andata la sua storia all'inizio? Beh, l'inizio è stata una storia di un padroncino che ha fatto una piccola azienda insieme con un altro socio. E all'inizio le cose sembravano andare bene. Un mancato pagamento ha cominciato a essere un problema. Sono stato avvicinato da questo personaggio all'interno di UPS ed è cominciato con un prestito di 10.000 euro e con questo è iniziato il tunnel. È iniziato un tunnel dove non sono ancora uscito. E a quel punto l'usura quando entra? Pian piano, mese per volta, non riuscendo a pagare gli interessi, fai un altro prestito sempre con lui, sono altri interessi e gli interessi, poi non riesci più a pagare il secondo, entra un terzo prestito e sono interessi, degli interessi, degli interessi. Alla fine con un prestito di 17.000 euro sono andato a pagare una cifra all'incirca 70.000 euro, io e il mio socio. E da allora niente, la denuncia e tutto il resto, i processi, finché la sentenza è definitiva, ma a tutt'oggi io sono praticamente... E quindi tu hai fatto condannare l'usuraio denunciandolo, si è beccato una condanna a 4 anni e 6 mesi. 4 anni e 6 mesi. È stato condannato in terzo grado di giudizio, quindi una condanna passata in giudicato definitiva. Sì. E nel frattempo a te cosa è successo alla tua impresa? La mia impresa, sono riuscito a non farla fallire, a chiudere... Il mio socio è stato pignorato la casa, venduta all'asta, i mezzi sono ritornati al leasing, quant'altro, tutto questo, io mi ho fatto domanda al Ministero dell'Interno per avere questi fondi che a tutt'oggi non sono mai stati destinati, con varie scuse, Roma, Milano... Perché c'è una legge, la legge 108 del 96, poi emendata con la legge 44 del 99, che appunto in teoria, in pratica dovrebbe essere, però diciamo in teoria, mette a disposizione esattamente di chi fa quello che ha fatto Pier Francesco Raffaelli, cioè denuncia, porta in tribunale gli usurai, dei fondi necessari per continuare ad andare avanti. Eppure perché la tua domanda regolarmente fatta non ha ottenuto effetti? Avevi dei precedenti penali? Eri in cerca? Qual era il problema? No, assolutamente. Tutta la documentazione, precedenti penali, carichi pendenti, dichiarazione dei redditi, tutto questo è stato dato. In teoria c'è un blocco dei 300 giorni che viene bloccato tutti i pignoramenti e gli atti di precetto e quant'altro. Questi 300 giorni sono passati e i debiti sono continuati ad andare avanti. In teoria dovrebbero arrivare in questo anno i soldi, al 99% non arrivano mai a nessuno, sì. È quasi impossibile che arrivino questi 300 giorni. E la situazione poi è andata sempre a peggiorare finché... Ma la domanda è, a quel punto, avendo diritto a questo denaro pubblico, sì, stabilito da leggi vigenti, sì, non era possibile scontarlo in banca e farselo anticipare? Assolutamente no. Perché nel frattempo sia io che il mio socio erano sia cattivi pagatori e protestati. Noi in banca non possiamo neanche presentarci, non possiamo neanche entrare dalla porta della banca. L'usuraio sì, lui può entrare, può anche vedere i prestiti, noi no. Senti, posso chiederti, dopo i 60 secondi che dedichiamo adesso all'informazione stradale ritualmente, che cosa hai provato al vedere che poi la banca della 'Ndrangheta dà i soldi a vista al 5%? Funziona così perché molti sono curiosi di questo 5%. Sì. Io mi sono limitato a leggere quello che c'è su tutti i giornali, leggete anche voi perché non ho accesso ovviamente ad altro che a quello. Il meccanismo era, naturalmente riciclano soldi illegali, come ovvio, e in cambio dell'assegno del prenditore gli restituivano un liquido meno 5%, quindi il tasso di interesse è 5%. Ti chiedo che cosa pensi leggendo questo, però abbiamo prima un minuto di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.46, 41 secondi, agli studi Radio 24 di Milano. La versione di Oscar, abbiamo qui ospite Pier Francesco Raffaelli, un imprenditore che ha portato in tribunale gli usurai, li ha fatti condannare fino al terzo grado di giudizio, la sua piccola impresa era in difficoltà, lui non si è avvalso di denaro criminale usurato, ha fatto il suo dovere di cittadino e di imprenditore, perché come ovvio poi chi si affida anche a prestiti illegali è come se facesse cattiva concorrenza a invece gli imprenditori onesti che invece di fronte la porta chiusa della banca, si vedono negato il credito e devono andare a chiusura, inseguiti anche da Equitalia. Eppure per tutto questo lui ha fatto regolare domanda per i fondi antiusura, non li ha ricevuti, non li ha potuti scontare in banca, è finito nella condizione non solo di portare a chiusura senza fallimento la sua impresa, ma è pignorato, non ci può mettere piede lui nella banca legale. Nel frattempo quello della 'Ndrangheta prestano i soldi al 5%. Che pensi di fronte a tutto questo, Pier Francesco? Penso che il sistema creditizio in Italia sia da cambiare, se no non vedo altra soluzione per questo paese, in poche parole. Io questo mi sento di dirlo, non vedo altro. Io purtroppo nella mia esperienza ho visto che questa persona prestava soldi a altre aziende dentro UPS e nessuno mi ha denunciato. Mi spiace dirlo, l'ho detto in tribunale, ma prestava soldi a altre aziende, ha fatto fallire altre aziende dentro. Ho visto persone che piangevano, persone senza lavoro. Posso farti una domanda pesante, perché mi rendo conto, siccome stai pagando un prezzo amarissimo, anche nella vita privata, so, ma di questo non voglio parlare. Pensi che vicende come la tua possano avere l'effetto di indurre chi disperato entra in contatto o è contattato dagli usurai a fare come hai fatto tu, cioè a denunciarli, o al contrario a non farlo, come sembra a me? Purtroppo, non voglio sottovalutare l'importanza di quello che hai fatto, però uno ti sente raccontare, sa come nella vita ti si è volto tutto contro e dice perché da questo i cittadini dovrebbero avere l'impressione che valga la pena, oltre che essere giusto in teoria, ma valga anche la pena farlo, di denunciare gli usurai. Assolutamente bisogna denunciare, assolutamente, non c'è altra scelta, perché penso che se non avessi denunciato a quest'ora mi sarei suicidato, dico sinceramente. Ecco, allora io su questo voglio solo che chi a casa rifletta un secondo, malgrado tutto quello che capita a Pier Francesco non ha dubbi e dice che voi tutti dovete andare in tribunale se vi capita, malgrado quello che gli capita. Io mi levo il cappello che non ho in questo momento in studio, perché credo che chi paga così amaramente e rimane indefettibilmente legato alla via della legalità sia l'esempio vero, ma l'esempio vero che viene dal basso, cioè dai cittadini. Lo Stato ha torto marcio nei confronti di Pier Francesco Raffaelli, io non ho parole di fronte al fatto che sia davvero capitata una storia come la sua. Sentiamo come la pensa qualche ascoltatore. Marco da Pisa, prego Marco. Sì, innanzitutto complimenti per la trasmissione e grazie per l'opportunità, signor Oscar. Allora, non è una questione proprio puramente di diciamo di strozzinaggio la mia. Io sono un imprenditore, un autotrasportatore, avevo due camion, ho avuto un incidente, cerco di essere sintetico. Il camion, praticamente l'altro camion, ne avevo due, uno dei due ho dovuto farlo ritirare dall'ISIN per non riuscivo più a evadere le rate. Che cosa è accaduto? Che il leasing mi ha posto in sofferenza malgrado un piano di rientro già pattuito, gli altri istituti di credito praticamente mi hanno chiuso tutte le porte in faccia, non posso più presentare portafoglio clienti, non posso più pagare i clienti e i fornitori, chiedo scusa, con assegni, non posso più avere gli anticipi per poter mettere gasolio, mi hanno ritirato le carte di credito, non posso più avere libretti di assegni, e a questo punto io vorrei sapere come può un imprenditore riuscire a, malgrado avere il lavoro, ma a portare avanti un'azienda e pagare i fornitori e riuscire a non far fallire la propria azienda. Purtroppo non ci può riuscire. Questo, Marco, il tuo caso, che è il caso di migliaia di artigiani e piccoli imprenditori nel nostro paese, dimostra che bisogna cambiare la legge rispetto allo scatto automatico delle misure cautelari bancarie che ci rendono paria in caso di presofferenza bancaria. Altri ordinamenti, come quello britannico, quello statunitense, arrivano fino a prevedere forme di concordato in continuità anche per le persone fisiche, oltre che per le piccole aziende, che non interrompono la vita aziendale, fino al fallimento individuale, oltre che a Chapter 11 per le medio-grandi imprese negli Stati Uniti. Noi dobbiamo introdurre ordinamenti di questo tipo, altrimenti quando arriva la difficoltà e tutti diventano cattivi pagatori, tutti diventiamo paria, e oltretutto le sofferenze, poi l'ordine delle banche arrivano a 160 miliardi, il totale di tutta la catena dei crediti che sono sulla strada arriva a superare i 300 miliardi, e per questo le banche fanno ulteriore restrizione di credito. È tutto sbagliato, questa è la mia opinione modestissima, so che molti di voi pensano che poi io su questo parli senza titoli, non è così, dopo 30 anni che uno osserva con attenzione le norme, l'evoluzione, il comportamento concreto, l'ordinamento bancario italiano. Nel frattempo le banche dell'Andrangheta si regolano con tassi più di mercato di quelli del sistema del credito. Che cosa pensate che avvenga in un paese dove ci sono migliaia e migliaia di piccoli imprenditori disperati? Avviene l'inevitabile, cioè che ci sono nuove vittime e nuovi adepti per la malavita. Lo Stato tutto questo non lo vede? Non ci credo che non lo vede. Se ne fotte, è un altro paio di maniche. Pierluigi da Ancona. Buonasera Oscar, purtroppo l'Italia è piena di questi eroi che vengono lasciati sempre da soli dalle nostre istituzioni. Volevo portare l'esempio proprio di questi giorni della società Sorgenia, che da anni continua a essere in deficit e nonostante tutto un buco ultramiliardario. 1.9 miliardi di euro. Per essere ancora, le banche che sono lì a dare soldi e continuano a mettere soldi in questa società che probabilmente non ritorneranno mai, e poi questa azienda già ha le sue centrali già declassate, quindi già deprezzate, quindi alla fine le banche poi andranno a scaricare come al solito i costi sui loro azionisti e i piccoli risparmiatori. Ora si sta parlando di un piano di conversione del debito in azioni di Sorgenia, però le banche vogliono che ci mettano almeno 400 milioni la CIR di De Benedetti, padre e figlio, e il figlio oggi lo fa ad amministrarlo, la CIR non ne vuole mettere più di 100. Quello che è evidente, secondo me ha ragione Pierluigi, è che con i grandi gruppi il sistema bancario non solo pratica costi del denaro che si sognano i piccoli, ma come ci ha spiegato il professor Bazzoli di Banca Intesa, il capitalismo di relazioni, dice lui, è una grande questione positiva perché contano le relazioni. No, quando conta il nome e il cognome del prenditore e la sua potenza, la sua forza, e non contano i fondamentali, siamo in un sistema che non è molto diverso da quello in base a cui funziona la mafia. Questa è la mia opinione, molto pesantemente la esprimo. Claudio da Bologna, prego Claudio. Sì, pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione e per il servizio pubblico che date. Allora, innanzitutto io nel 2012 con un socio abbiamo deciso di aprire un piccolo etichettificio in provincia di Bologna. Abbiamo contattato diversi istituti di credito, il quale 10-8 ci hanno detto che assolutamente non erogavano una lira. Siamo rimasti due che hanno fatto i complimenti per il piano che avevamo messo, perché avevamo fatto un piccolo business plan per da presentare, e di cui uno ci ha erogato la cifra di 330.000 euro. Ah. Questo il 20 di dicembre. Sì. L'ha erogata perché dietro abbiamo dovuto mettere le firme di garanzia di mio padre, che è un altro imprenditore che per fortuna alle spalle ben coperte e ci poteva fare da garante. Il giorno della stipula, dell'erogazione del mutuo, il tasso è diventato il 10.46. Ah. Il nostro errore è stato che, presi dalla, perché abbiamo creato un SRL con 70.000 euro di capitale interamente versato, non una di quelle per fare i puffi. Certo. Noi nel progetto ci credevamo, perché avevamo 30 anni di esperienza in quel settore. E niente, ci troviamo oggi che la settimana scorsa abbiamo messo tutto in liquidazione volontaria. E ci apprestiamo a fare una denuncia per usura soggettiva, dal primo momento che abbiamo già fatto fare una perizia giurata da un perito che attesta che i tassi sono da usura. Allora, no, è chiarissimo Claudio, io purtroppo ti devo interrompere perché devo andare rapidissimamente anche all'ultima telefonata. Capite l'11% quando il denaro si prende per le banche, capite il tasso primario di riferimento con la BCE è un quarto di punto, eh? Pierluigi da Verona, prego Pierluigi, come la pensi? Sì, no, niente, secondo me... Pronto? Sì, dica. Sì. Niente, io penso che c'è un problema anche alla fonte, perché io pago un pignoramento e sono precario e alla fine i soldi che io vado a pagare li pago per niente, perché gli interessi poi sono riaumentati di nuovo. E secondo me non si dovrebbe fare il pignoramento se è un contratto a termine. E poi altre persone che avanzano credito non possono stare in stand-by. Ma il pignoramento veniva da una banca? Il pignoramento veniva dalla banca? Perché l'altra anomalia italiana è che noi siamo riusciti a introdurre nell'ordinamento il mancato pignoramento prima casa per Equitalia per lo Stato, ma se poi Equitalia lo delega a una banca, la banca può continuare a farlo, e quindi questa è un'altra anomalia totale. A me non resta che ringraziare Pier Francesco Raffaelli, dargli un abbraccio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio 24 per l'esempio che ci ha dato, e continuare a scriverci, perché se si può dargli una mano, io personalmente e tutti quanti noi ci mobilitiamo per lui. Grazie, continuate su Radio 24.